Simo X. Mike from Campo. X-Tay. Ogni sera quando sono a letto penso, do sfogo ai castelli più grandi, libero i pensieri che ho dentro. Mi sento grato verso chi mi è stato vicino. Ripenso ai volti che ho incontrato lungo il mio cammino. Alcune facce le vedevo e non le ho più riviste. In alcune credevo, altre mi rendevano triste. Mano le prime miste, scoprivamo un mondo nuovo. Le storie alle impreviste, poi ci si vede al ritrovo. C'è guantini su una ruota e quattro calci un pallone. All'inizio schiaffo del soldato e degenerato, poi Ricone. Volevamo farci un nome, perché a noi è sempre piaciuto stare al centro dell'attenzione. È un'emozione avere la stima di gente che stimo. Io non gioco per partecipare, voglio essere il primo. Io cammino in salita, ma io non mi scoraggio mai. Vivi la tua vita al massimo e non la rimpiangerai. Quanti passi nella tua vita farai? Quanti? Quante strade sotto il sole da solo percorrerai? E chi incontrerai? Forse proseguirà con te. Era una via, una scorciatoia che non c'è. Già si va, perché poi non si torna indietro. Lo sai che in questa vita non puoi mettere la retro. Metro dopo metro solo con compagni al tuo fianco. Non cessare di sperare neanche quando sarai stanco. Giorno di sole dopo tre giorni che piove. Questa vita scorre via veloce, porta non sai dove. Questa strada che percorri tutti i giorni, nei dintorni, nei palazzi, nei sobborghi, cercando nuovi orizzonti dietro ai monti ed oltre al mare, per sperare di trovare ciò che vale veramente. Ma in fondo pensi sempre al cammino percorso e che ti ha spinto fino a qui. Quel ragazzino con un sogno ora lo chiamano MC. Prime esperienze, sorrisi senza pensieri per la testa. La prima cotta che devasta quegli sguardi a quella festa. Tutto resta, anche la sofferenza che ti segna, ma ti insegna a tener duro anche se intorno è scuro. È una corsa senza regole, se debole ti schiacciano, minacciano di render vano ogni tuo passo. Non scordar da dove vieni o sbagli strada. Muovi i passi del cammino, seguilo dovunque vada. Quanti passi nella tua vita farai? Quanti? Quante strade sotto il sole da solo percorrerai? E chi incontrerai? Forse proseguirà con te. Era una via, una scorciatoia che non c'è. Già si va, perché poi non si torna indietro. Lo sai che in questa vita non puoi mettere la retro. Metro dopo metro solo con compagni al tuo fianco. Non cessare di sperare neanche quando sarai stanco.